Non trova mai tanto che le basti perché, in sostanza, non sapeva quello che si volesse e fa scontare senza pietà il dolce che aveva dato senza ragione. Quando comparve questa Lucia, molti i quali credevano forse che dovesse avere i capelli proprio d'oro e le gote proprio di rosa e due occhi l'uno più bello dell'altro e che so io, cominciarono a alzar le spalle, ad arricciare il naso e a dire «Eh? L'è questa? Dopo tanto tempo, dopo tanti discorsi, s'aspettava qualcosa di meglio. Cos'è poi? Una contadina come tant'altre? Di queste delle meglio, ce n'è per tutto». Venendo poi a esaminarla in particolare, notavan chi un difetto, chi un altro. E ci furon fin di quelli che la trovavan brutta affatto. Siccome però nessuno le andava a dir sul viso a Renzo queste cose, così non c'era un gran male fin lì. Chi lo fece il male furon certi tali che gliele rapportarono. E Renzo, che volete, ne fu tocco sul vivo. Cominciò a ruminarci sopra, a farne di gran lamenti e con chi gliene parlava e più a lungo tra sé. Cosa vi importa a voi altri? E chi v'ha detto d'aspettare? Son mai venuto io a parlarvene, a dirvi che la fosse bella. E quando me lo dicevate voi altri, v'ho mai risposto altro se non che era una buona giovine. È una contadina. V'ho detto mai che v'avrei menato qui una principessa. Non vi piace? Non la guardate. N'avete delle belle donne. Guardate quelle. E vedete un poco come alle volte una corbelleria basta a decidere dello stato d'un uomo per tutta la vita. Se Renzo avesse dovuto passar la sua in quel paese, secondo il suo primo disegno, sarebbe stata una vita poco allegra. A forza d'esser disgustato, era ormai diventato disgustoso. Era sgarbato con tutti, perché ognuno poteva essere uno dei critici di Lucia. Non già che trattasse proprio contro il Galateo, ma sapete quante belle cose si possono fare senza offender le regole della buona creanza, fino a sbudellarsi. Aveva un non so che di sardonico in ogni sua parola. In tutto trovava anche lui da criticare, a segno che, se faceva cattivo tempo 2 giorni di seguito, subito diceva «Già, in questo paese!» Vi dico che non eran pochi quelli che l'avevan già preso a noia e anche persone che prima gli volevan bene. E col tempo, d'una cosa nell'altra, si sarebbe trovato, per dir così, in una guerra con quasi tutta la popolazione, senza poter forse neanche lui conoscer la prima cagione d'un così gran male. Ma si direbbe che la peste avesse preso l'impegno di raccomodar tutte le malefatte di costui. Aveva essa portato via il padrone d'un altro filatoio, situato quasi sulle porte di Bergamo, e l'erede, giovine scapestrato, che in tutto quell'edificio non trovava che ci fosse nulla di divertente, era deliberato, anzi smanioso, di vendere anche a mezzo prezzo. Ma voleva i danari l'uno sopra l'altro per poterli impiegar subito in consumazioni improduttive. Venuta la cosa agli orecchi di Bortolo, corse a vedere. Trattò patti più grassi, non si sarebbero potuti sperare, ma quella condizione de pronti contanti guastava tutto, perché quelli che aveva messi da parte, a poco, a forza di risparmi, erano ancor lontani da arrivare alla somma. Tenne l'amico in mezza parola, tornò indietro in fretta, comunicò l'affare al cugino e gli propose di farlo a mezzo. Una così bella proposta troncò i dubbi economici di Renzo, che si risolvette subito per l'industria e disse di sì. Andarono insieme e si strinse il contratto. Quando poi i nuovi padroni vennero a stare sul loro, Lucia, che lì non era aspettata per nulla, non solo non andò soggetta a critiche, ma si può dire che non dispiacque. E Renzo venne a risapere che s'era detto da più d'uno «Avete veduto quella bella baggiana che c'è venuta?» L'epiteto faceva passare il sostantivo.